Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È stato uno dei 5 romanzi finalisti al Premio Strega 2017. Titolo È giusto obbedire alla notte, di Matteo Nucci, pubblicato da Ponte alle Grazie. È un romanzo complesso che racconta di una varia umanità che vive su barconi e chiatte sul Tevere. Il protagonista è un uomo, Ippolito, soprannominato il Dottore, che è andato a vivere in questo microcosmo dopo un dramma familiare. Si capisce che la figlia ha avuto una grave malattia. I suoi vicini, i suoi nuovi amici, sanno poco e niente del suo passato, perché questo è un posto, una comunità dove ognuno ha la sua ragione per stare, ma dove non si fanno domande. È un luogo ai margini, ma pieno di umanità. Perché ambientare questa storia a Roma, ma in una Roma insolita, quella appunto dei barconi sul Tevere? Perché Nucci ha scelto questo punto di vista sulla realtà? Sentiamolo. Perché mi interessava raccontare, descrivere una dimensione spazio-temporale estranea a quella a cui noi siamo abituati nelle nostre vite di città, in cui lavoriamo dalla mattina alla sera, abbiamo le vacanze, abbiamo determinati spazi, determinati tempi, determinati luoghi. Ci sono nel nostro mondo occidentale dei luoghi non alternativi, perché quando uno dice alternativo sembra che ci siano di proposta alternativa al nostro mondo, ma dei luoghi paralleli dove si vive in un altro modo. E in questi luoghi, in questi spazi che sono spesso molto vicini al centro delle città in cui noi viviamo, la cosa fondamentale che è vissuta, la dimensione fondamentale che è vissuta in maniera completamente diversa è quella del tempo. Ora, l'uomo che va a vivere in questi spazi, il protagonista del mio romanzo, è un uomo che deve fare i conti con se stesso, con il proprio dolore, con il proprio passato, quello che ha vissuto. È un uomo che apparentemente in fuga, ma che in realtà sta cercando se stesso. Ecco, il luogo dove trova tutto questo è un luogo dove ha avuto l'impressione, quando ci è passato nella sua, diciamo così, vita precedente, di poter vivere il tempo in una maniera diversa. Io sono assolutamente convinto che questa nostra abitudine a vivere le nostre vite iperproduttive sia completamente nefasta e che ci sia un'alternativa. Io non credo che noi non possiamo non dirci cristiani, io credo che noi non possiamo non dirci greci. E i greci dicono, ripetono costantemente una cosa fondamentale, sia gli antichi che i moderni, che i contemporanei. Gli antichi ci dicono che la dimensione in cui l'uomo veramente realizza se stesso è la dimensione libera dalle necessità, libera dal lavoro, il tempo in cui uno può contemplare, può pensare a se stesso, può riflettere sul proprio dolore, fondamentalmente quella che i greci antichi chiamavano la scolè, cioè il tempo libero da cui viene scuola. Noi a scuola andiamo perché non abbiamo un lavoro da fare, quindi possiamo studiare, possiamo pensare, possiamo riflettere sulle nostre vite. I greci moderni, quando dicono ho fretta, dicono mi faccio violenza. C'è uno spazio fondamentale delle nostre vite che è quello del tempo, che poi è la nostra più grande ricchezza. Cioè, grande ricchezza non sono i soldi, che non ci facciamo niente, poi li possiamo solo spendere. La grande ricchezza è il tempo, che è finito e che dobbiamo riuscire a spendere nel modo migliore, anche a perderlo nel modo migliore, consapevolmente. Non è un caso che citi greci, perché tu sei un grande appassionato di antica Grecia, di studi appunto sull'antica Grecia. Quando si pensa di parlare di una Roma di persone ai margini, penseremo subito alle periferie. Invece tu hai scelto il fiume, il Tevere, un posto dove comunque vivono sì ai margini, ma anche con una certa armonia, con una natura insolita, perché ci sono le nutrie, ci sono altri tipi di animali. Ecco, non hai voluto accendere il tuo faro sulla Roma delle periferie, ma su una Roma legata alla natura. Perché? Perché Roma è cresciuta nella sua storia sempre in attorno al Tevere. Purtroppo dal Tevere è stata allontanata dagli argini quando sono stati costruiti con l'Unità d'Italia e con la disgraziata idea di fare di Roma una capitale, la capitale. Gli argini hanno separato Roma dal fiume. Roma è una città di fiume, era la città che viveva sul fiume. Nel libro ripeto spesso, racconto spesso di questi acquerelli bellissimi, io amo molto e che spesso sono ignorati, di Resler Franz, che è quell'acquerellista della cosiddetta Roma sparita. Roma sparita perché è sparita? Perché viveva appunto sul fiume. Adesso c'è ancora, in realtà, non è completamente sparita quella Roma, basta uscire un po' dal centro, andare dove questi argini non ci sono più e il fiume riprende possesso della città, la città si reintegra col fiume e la natura è la mediatrice tra la natura, diciamo, di vegetazione, come intesa come vegetazione, mediatrice tra il fiume e la terra dove si vive. È quello spazio lì che ha un valore non solo spaziale, perché è un valore anche spirituale, perché sul fiume si vive in maniera più aperta, il fiume, il passaggio, il commercio, adesso non è più commercio, ma insomma sono le vie dove i barconi, le chiatte passano, gente arrivano, gente vanno, dove ci si incontra senza chiedersi troppi perché, da dove vieni, cosa fai. E in questi luoghi spesso si creano delle piccole comunità, e sono comunità non per valori, diciamo il valore della comunità, ma per necessità, per ognuno cerca di soddisfare le rispettive necessità e si forma una specie di piccola armoniosa comunità. Spesso quando noi guardiamo alle persone che vivono appunto come si dice in genere ai margini, si pensa che siano le persone che vivono dei reietti, dei poveretti, invece sono spesso persone che vivono in maniera diversa, che curano amorevolmente le proprie case, le proprie baracche, le proprie chiatte in questo caso, e che vivono in maniera assolutamente dignitosa la loro vita, anzi la vivono spesso in maniera talmente dignitosa che hanno qualcosa da insegnarci. Infatti il protagonista di questo, del mio libro, impara molto da loro. C'è proprio una varia umanità che tu descrivi, ma soprattutto un'empatia e un affetto che cresce in modo trasversale fra queste persone. Appunto, sono una comunità a parte, ma c'è, almeno si percepisce da lettore, anche una grande solidarietà fra alcuni di loro. Il protagonista, appunto, è Ippolito, che tutti chiamano il dottore perché non è medico, però diciamo ha fatto personalmente degli studi di medicina, in questo modo aiuta le persone di questa comunità vicino al Tevere. Si capisce poi, leggendo il romanzo, che Ippolito ha alle spalle un grandissimo dolore che ha a che fare con sua figlia Teresa. Però fino alla fine del libro, questo lo possiamo dire, non viene mai esplicitato in modo netto, chiaro, che cosa ha causato questo suo dolore. Il lettore lo percepisce, lo intuisce, ma non viene data una definizione precisa. Perché hai voluto lasciare questo stato di sospensione quasi? Ma tutto quello che scrivo io è un po' basato sull'idea che il lettore debba fare uno sforzo. Fin dall'inizio del libro il lettore deve accettare la sfida del libro. Io non amo la letteratura di intrattenimento, il libro che si legge pagina dopo pagina e che uno non vede l'ora di finirlo perché vuole andare avanti e che non riesce a staccarsi dal libro. Io preferisco i libri che ti chiedono uno sforzo e ti chiedono di fermarti, di posarlo da una parte, di leggerlo lentamente, perché sono quei libri che poi a me personalmente piace leggere, quei libri che mi fanno fare un passo in più, che mi trasformano, mi cambiano. Il senso della letteratura per me è quello di trasformare chi legge, chi fruisce della letteratura in vario modo, insomma, e anche dell'arte più in generale. Ecco, l'esperienza estetica per me è un'esperienza che diventa anche etica, diciamo. Quindi insomma il mio modo di scrivere è pieno di omissioni, di buchi, di salti temporali, spaziali, per chiedere al lettore di abbandonarsi, seguire il libro e di mettersi in gioco, di essere lui stesso a recuperare dei tasselli, a immaginare quali possano essere, a fare la sua strada. Io amo quando un lettore mi racconta una strada che io non avevo neanche immaginato. Bene, è quello che volevo. È il lettore che deve darsi da fare sul libro. Questo è la grande cosa che mi hanno insegnato i grandi scrittori che ho amato, da Platone a Hemingway. Ecco, da lettrice proprio ammetto che per le prime 20 pagine, leggendo le prime 20 pagine, sono rimasta un po' spiazzata, proprio perché non riuscivo a capire esattamente chi diceva cosa, dove si era, in che contesto, cosa accadeva. Poi mi sono lasciata trasportare, sarà forse una metafora voluta o no, non lo so, quella del fiume, del Tevere, io mi sono lasciata comunque trascinare. Quindi è questo che tu cerchi nel rapporto con il lettore, che il lettore si affidi e si fidi di te. Sì, che si fidi di me, che si fidi più che altro del fatto che io lo sto chiamando in causa, non che si fidi di me passivamente, che si fidi di me perché il romanzo inizia come il fiume che è il centro di questo romanzo. Nel fiume ci si deve lasciare andare, non si può combattere contro la corrente del fiume, non si può cercare un punto d'appiglio, bisogna lasciarsi andare, se no si è finiti. E il romanzo ha questa struttura qui, bisogna lasciarsi andare, però non è che bisogna lasciarsi andare supinamente, passivamente a quello che io chiedo. Io chiedo che il lettore poi i suoi sforzi li faccia, la sua nuotata in questa corrente la faccia per conto suo, che trovi il suo modo di farla, ecco. Esiste comunque un nocciolo, una trama comunque in questo romanzo. Dicevamo che Ippolito, detto da tutti il dottore, si è rifugiato quasi in questa comunità per superare un grande dolore che riguarda la malattia di sua figlia Teresa. C'è una parte del libro, soprattutto a metà, dove tu accendi il faro sul rapporto di coppia fra Ippolito e la moglie, il modo diverso di affrontare anche la malattia della figlia. Emerge un padre che ha avuto anche i suoi problemi personali, si capisce, alcolista, eccetera, ma anche un modo molto diverso della madre e del padre di affrontare un dolore. Spesso quindi il dolore divide le persone invece che avvicinarle. Sicuramente. Tutto sta nel modo in cui si vive il dolore. C'è chi il dolore lo fugge, c'è chi il dolore vuole viverlo. Io credo che l'unica possibilità che ci è data per superarlo, se è possibile superarlo, è di viverlo. Aggirarlo, allontanarlo, fuggirlo è impossibile. Non è il romanzo una riflessione sui sessi, come i sessi i generi si confrontano di fronte al dolore, ma i due individui in questo caso, che peraltro smentiscono la risposta canonica. Il luogo comune. Che magari la madre, esatto, sarebbe stata più vicina alla figlia, in questo caso è il padre. In questo caso il padre, sì. Però il centro è il modo, il centro, il nucleo, il cuore della questione è come si vive il dolore. E di nuovo sono appunto i nostri greci a dirci che solo se noi viviamo fino in fondo, entriamo in contatto fino in fondo con il nostro dolore, abbiamo la possibilità di arricchirci, di farne qualcosa di importante, di crescere, di conoscere, di progredire. Questo è il senso del libro. Ippolito è un resiliente? Ma sì, in parte sì, adesso più che altro io direi che è un uomo che si è trovato di fronte al male assoluto, che è obbligato a capire che invece nelle vicende umane, nelle piccole quotidiane vicende dell'umanità con cui si trova a fare i conti e avere a che fare, eccetera, bene e male spesso si intrecciano e si sovrappongono, ci sono mille sfumature, ed è quello che poi lo porterà a un tipo di risposta diversa rispetto a quella che dava di fronte al male assoluto, quando rifiutava e combatteva la morte al punto tale da volerla quasi imporre. E questo era Matteo Nucci, autore di È giusto obbedire alla notte, pubblicato da Ponte alle Grazie. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta Il cacciatore di libri. Un romanzo corale che parla con grazia e leggerezza di relazioni umane, anche imprevedibili, che parla di affetto e di amicizia che può nascere fra persone apparentemente molto diverse, per esempio con una grande differenza di età. E il libro La perfezione non è di questo mondo, di Daniela Mattalia, pubblicato da Feltrinelli. Seguiamo a piccoli capitoli alternati la storia di quattro personaggi. Innanzitutto c'è Adriano, un ottantenne rimasto vedovo e che nei corridoi di un ospedale di Torino vede il fantasma della moglie Giulia. Giulietta. Poi c'è Gemma, una trentenne che fa volontariato al Filo d'Argento, un telefono amico per anziani dove instaura un bel rapporto con Olga. C'è appunto Olga, 75 anni, single, o meglio come lei si definisce, Zitella. Infine Fausto, trentenne che porta a spasso Archibald, il cane della fidanzata, una fidanzata insopportabile. Insomma, queste sono storie che ovviamente andranno ad incrociarsi. Ma partiamo da Adriano. Come reagisce alla vista del fantasma dell'amata moglie? Ce lo racconta Daniela Mattalia. Ma intanto lui è un ex insegnante, docente di filosofia in pensione. Quindi il vedere la moglie fantasmizzata che percorre le corsie delle molinette gli dà un senso di smarrimento, di dubbio, tipo ma sono pazzo io, mi sto indementendo, è un fantasma d'amore, cioè è nella mia testa. O vuoi vedere che è un fantasma vero? Tutto questo lo sbilancia, no? Lo spiazza. Anche perché Giulietta è un fantasma che ha un comportamento abbastanza stravagante, nel senso che gli fa un sorrisino, come se sì, lo vedesse, ma non è importante, e se ne va, e non si ferma mai a parlargli. E lui non si dà pace, non va neanche mai a trovarla al cimitero, perché dice, al cimitero non c'è, che vado a fare, mi deprimo, io me la cerco qua. E come un bambino torna lì quasi ogni giorno, perché sa che a un certo momento, in questa bolla di silenzio irreale, lei gli appare e poi scompare. E lui ha un senso di emozione, di meraviglia, ma di frustrazione. C'è anche molta tenerezza nel personaggio di Adriano, proprio nel ricercare questo fantasma della moglie morta. E forse la tenerezza è la cosa che accomuna molti dei personaggi di questo romanzo. C'è per esempio Gemma, che lavora in una libreria, ma il sabato fa il volontariato presso il telefono d'argento, il Filo d'Argento, che è un telefono, diciamo, amico per le persone anziane. Ed è qui che inizia a chiacchierare con una ultra settantenne, Olga. Anche qui c'è un rapporto di grande tenerezza fra le due. Sì, Gemma ha una mamma che non è tanto anziana, una mamma che ha 60 anni e qualcosa, con cui lei ha un rapporto di affetto, ma di sottile impazienza e insofferenza. E siccome in fondo non se lo perdona, allora quasi per un senso inconscio di riscatto, anziché ascoltare la mamma, che logorroica, chiacchierona, e dopo un po' lei si annoia a sentirla al telefono, come per un senso di riscatto, il sabato e la domenica si impone e ama farlo, stare al telefono con tutta una serie di vecchietti o di anziani, anche quelli insopportabili, petulanti, capricciosi, un po' prepotenti, per i quali prova affetto e tenerezza e molta pazienza. È come se spostasse il suo essere figlia inadeguata, imperfetta, a essere una specie di nipote ideale per persone più anziane della mamma, che tanto la mamma non è tanto anziana, tanto bisogno non ha, se la cava benissimo. E quindi faccio la brava con altre persone che davvero hanno più bisogno, che si sentono più sole. E quindi si crea tra Gemma e Olga, che non si sono mai viste, ma succederà, questo rapporto di confidenza, di intimità privilegiato rispetto ad altri anziani con cui Gemma chiacchiera e parla. Infatti, a proposito della madre, Gemma, diciamo, pensa, questo è il pensiero di Gemma, certo che le voleva bene, però non riusciva ad ascoltarla, a entrare nel suo cuore. Questo è un romanzo in cui tu presenti tutta una serie di relazioni umane, quindi madre, figlia, uomo anziano che ha perso la moglie, una storia d'amore che potrebbe nascere fra Gemma e Fausto e così via. Hai raccontato tutta questa varia umanità con una certa leggerezza e mi è sembrato di percepire da lettrice con uno sguardo d'affetto. È così? Sì, sono tutti personaggi a cui io mi sono affezionata, che mi hanno intenerito, mi fanno ridere, perché poi c'è anche, l'hai visto, anche molta ironia, ma è un'ironia sempre, non è mai sarcastica. E credo che chi lo leggerà o chi l'ha letto si affezioni poi a questi personaggi e prova nei loro confronti lo stesso sguardo indulgente, tenero, affettuoso e anche sorridente, perché poi fanno delle cose buffe, fanno delle cose maldestre, che poi sono quelle che facciamo tutti noi, che se ci guardassimo da fuori anche noi saremmo più indulgenti e più autironici di quanto non lo siamo di solito. A proposito degli anziani, a un certo punto fai dire, diciamo, ad Olga, fai pensare ad Olga il fatto che quando si ha una certa età si ha bisogno proprio di essere toccati, cioè di avere un gesto fisico, no? Di essere riconosciuti dal punto di vista del tatto. Questa è un po' anche la solitudine che vivono, secondo te, molti anziani? È una bellissima domanda, sì, è esattamente così, perché, e poi l'ho visto su mia madre che ha perso mio padre esattamente nei modi in cui Adriano ha perso Giulietta, da un giorno all'altro, senza neanche potergli dire addio. E la cosa che più manca a mia madre, così come manca, che è una persona vera, così come manca a Olga, che è un personaggio di un romanzo, è il sentirsi abbracciati, toccati, anche perché gli anziani un po' sono invisibili, un po' sono poi gli abitanti davvero più imperfetti e più invisibili delle città, perché se tu passi per una città, un bambino lo guardi, una bella donna la miri, un bell'uomo dici caspita, ma gli anziani chi si ricorda? E proprio gli passi attraverso e non ti accorgi come sono vestiti, che cosa è il loro volto, sono diventati invisibili, trasparenti. E oltre a questa inconsistenza visiva, non ti viene poi voglia di toccarli, abbracciarli, perché proprio questa fisicità che gli viene a mancare. Anche poi probabilmente quando hanno intorno a sé una famiglia, quindi non è che sono tutti vedovi o non si sono mai sposati, però credo che nessuno abbraccia spontaneamente un anziano, non se lo pastrugna, non gli passa le mani tra i capelli, non se lo tocchiccia, così invece come si fa con un bambino, con un'amica, con il proprio compagno. Io, per esempio, da figlia inadeguata, imperfetta, me lo devo ricordare sempre, perché è esattamente quello che non faccio con la mia mamma, che adoro, però mi accorgo che ogni tanto lei, quando vado a trovarla, mi dice «Dai, dammi un bacio!» E io dentro di me dico «Ma che smancerie, ma che bisogno c'è?» E lo faccio, ma anche un po' distratta, a richiesta, e non dovrebbe essere così. Però si capisce dal romanzo che per te le figure delle persone, diciamo, anziane hanno un significato particolare. Tanto è vero che metti come primo capitolo, come voce narrante all'inizio, Adriano, poi c'è Olga, poi c'è Gemma, appunto, perché poi i personaggi si devono incontrare in qualche modo, che parla al telefono con Olga. Olga che esce con un'amica di una certa età. Insomma, come dire, è un tema che ti interessa particolarmente. Forse sì, ma non era premeditato. Però hai ragione, ho sentito di più e forse mi sono anche divertita di più a raccontare dai 60 in poi. Anche perché poi è bello in questo romanzo che a un certo punto i personaggi si incontrano ed è bello vedere la varia umanità, perché Fausto e Gemma, abbiamo detto, sono due trentenni, si capisce che potrebbe fra loro nascere una storia d'amore, però coinvolgono Adriano, lo portano a cena fuori, cioè diventano un trio, che è una cosa abbastanza insolita. Anche Adriano lo pensa, dice ma questi due dove li ho trovati che mi portano a cena con loro? Però sa anche perché lo fanno. Intanto tra Fausto e Gemma c'è una cosa in comune, Gemma si occupa di anziani e a un certo momento gli dice se tu sapessi, alcuni sono veramente deliziosi. E Fausto allora che ne ha appena incontrato uno, come no, anch'io ne ho uno, e si vanta, anch'io ne ho uno, un professore di filosofia, un tipo in gambissima, ti piacerebbe. E lì scatta una delle fiammelle che si accendono tra Gemma e Fausto, tipo io ho un'anziana da schianto e l'altro gli dice ma che credi, pure io, no? E poi Adriano va a cena con loro perché dice questi due vogliono entrare in sintonia, farsi la corte, e hanno bisogno di me, perché questo triangolo è più semplice, perché dicendo a me una cosa c'è un sottinteso, un amico, una cosa carina, e quindi lo faccio, e quindi lo faccio. Lui si mette tutto elegante e va a questa cena e osserva questi due imbranati. Ecco perché in questo romanzo c'è appunto anche la nascita, diciamo, di una storia d'amore, perché all'inizio vediamo Faust che con la sua fidanzata, che obiettivamente è antipaticissima, insomma, Susanna, e invece con Gemma, insomma, pare poter nascere qualcosa. Anche qui, questo è un rapporto che tu hai voluto descrivere e raccontare con grandissima delicatezza. Io ho trovato sempre una grande delicatezza su tutti i rapporti umani che tu hai, che hai descritto in questo libro. È una cosa che ti contraddistingue. L'ironia c'è, dicevamo, non c'è il sarcasmo, ma soprattutto una grande tenerezza. C'è tenerezza, c'è leggerezza, perché è poi il mio modo di stare al mondo. Cioè di capire le persone senza entrare a gamba tesa nella loro personalità, nelle loro storie, nella loro vita. Forse anche un modo per capire senza farsi coinvolgere troppo. È un meccanismo di difesa, la leggerezza, l'ironia. E credo che dal punto di vista narrativo, per quanto riguarda me, che ho appena scritto un romanzo, quindi capire che esperienza ho, però credo che narrativamente sia uno strumento che ti permette di fare più cose che non entrare con un bisturi e analizzare, tagliare, sviscerare, raccontare i rapporti con leggerezza senza spiegarli troppo. E mettersi un po' dalla parte del lettore che vede le cose che vedi tu. Non devi stare tu a spiegare, tu gliele mostri, così come le vedi. Il protagonista, diciamo, occulto, diciamo così, di questo romanzo è Archibald, questo caso. Lo definisco occulto perché in realtà è sempre presente e gli dai voce solo proprio nell'ultimo capitolo per avere il suo punto di vista. L'hai dichiarato anche nella tua biografia che tu hai un cane. Si capisce che c'è un rapporto particolare con gli animali. Olga ha un gatto. Insomma, gli animali sono sempre presenti in questo romanzo. Semplicemente come esseri viventi che fanno compagnia o sono qualcosa di più? Sono molto di più. Archibald, come Angelo, il taxista, è un traghettatore, no? Porta le persone, in questo caso il suo padrone che viene trascinato o al guinzaglio o a inseguirlo, lo porta in posti dove altrimenti Fausto non andrebbe. I cani ci portano in posti dove altrimenti noi non andremmo, ci portano a conoscere persone che altrimenti non conosceremmo. E come far parte di un club esclusivo. Se non hai il cane non ci entri, ma se ce l'hai entri garantito, e trovi che questo club di proprietari di cani ci puoi trovare il cane della persona più importante del pianeta, che ne so, il cane del presidente americano e il cane dell'ultimo della terra, che giocano insieme. Allora, anche soltanto per dire, ma anche il suo cane perde il pelo in primavera, c'è, no, un'interazione che non potrebbe mai esserci, mai. E quindi i cani non solo sono dei traghettatori, sono anche degli strani accendini, accendono dei rapporti e nei casi migliori innescano delle amicizie che durano nel tempo. Hai citato il personaggio di Angelo il tassista, anche lì personaggio meraviglioso che sembra guardare tutti gli altri che si muovono dall'esterno. Lui, diciamo, guida, a volte prende delle finte scorciatoie, in realtà allunga la strada perché capisce che i personaggi, le persone che porta sul suo taxi, in alcuni casi hanno bisogno di essere distratte, essere colpite da altre cose per riflettere. Cioè, praticamente è un filosofo. E un traghettatore fra mondi, fra dimensioni diverse, fra l'aldilà e l'aldilà. Angelo sa più di quello che sembra, fa lo gnorri e però puntini, puntini. Ecco, a proposito di questi puntini, tu sei una giornalista che si occupa di scienza, soprattutto di medicina. Com'è che una giornalista, appunto, che si occupa di questi argomenti decide nel suo primo romanzo di parlare anche della morte, definendola come appunto questo al di qua e al di là, e dove non c'è esattamente un confine netto, è come se fossero in un limbo, a metà strada. Una visione, diciamo, poco scientifica. Poco scientifica e poco religiosa. Sono serenamente atea. ho più indizi che esista l'aldilà che Dio. E un aldilà che però rifiuta l'idea del paradiso, perché il paradiso è un posto noiosissimo, secondo me. Mentre un aldilà con le minuscole, contiguo all'aldiquà, no? Come se ci fossero delle fessure nascoste in cui questi personaggi stanno, non possono essere visti, ma gli manca poco per essere visti, è come se fosse una dimensione da cui loro scientemente non vogliono separarsi, non hanno nessun interesse di traslocarlo in paradiso. Lo potrebbero fare, ma è più divertente rimanere, è più imprevedibile rimanere a fianco dei vivi, dargli fastidio in maniera affettuosa, interagire, si incontra persone più interessanti, come dirà un personaggio. Quindi, come ho fatto io che sono scientifica, ho fatto che io sono tre quarti scientifica. Non credo nell'omeopatia, negli marziani, un sacco di cose suggestive. Però c'è l'ultima parte di me che non è scientifica per niente, e in quella parte di me c'è tanta roba, no? Io credo nei fantasmi. E questa era Daniela Mattalia, autrice di La perfezione non è di questo mondo, pubblicato da Feltrinelli. Anche per oggi è tutto, grazie in regia ad Andrea Roccabella. Vi ricordo che in questo periodo estivo Il cacciatore di libri va in onda il sabato, come sempre alle 6.30 e alle 22, ma anche la domenica alle 16.15 e alle 20.45. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.